Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ha guadagnato un buon punto la capolista Juventus ieri sera a Roma, o ne ha lasciati sul Prato due ampiamente alla sua portata? Ma è un po' la domanda del giorno. Io credo che sia buona la seconda, dal mio punto di vista, perché pur con tutta l'ammirazione del caso per come la Roma ha saputo far fronte all'emergenza difensiva grazie a una grande partita di De Rossi e a un'eccellente prestazione comunque di Heinz e di Taddei, credo che davvero la Juventus avrebbe potuto sfruttare meglio e soprattutto in maniera più coraggiosa, sia pure condizionata da quell'infortunio iniziale di Vidal, avrebbe potuto sfruttare meglio la sua superiorità di organizzazione di gioco, soprattutto perché come abbia giocato la Roma è tuttora non semplicissimo da definire. Io sentirei prima un paio di commenti a caldo significativi, oltretutto praticamente inediti, visto che stiamo parlando di un turno infrasettimanale, e poi invece ne parleremo insieme più tardi, dopo l'appuntamento con il calcio internazionale a sua volta ricchissimo in questo nella puntata di oggi. Cominciamo da Buffon e dal suo rigore parato a Totti. L'unica cosa che qua mi sono dispiaciuto è di averlo parato a un amico come Francesco, che credo che magari in un momento come questo aveva bisogno, ecco, magari di segnare. Rigore parato quando la partita vale, come valgono sempre i Roma-Juve, ha sempre un sapore diverso, ecco, da altri, ha sempre un sapore molto, molto grande. Se poi insomma ci unisci il fatto che l'ho parato Francesco, è chiaro che mi inorgoglisce ancora di più, perché la stima che ho di lui, ecco, come calciatore è immensa. Buffon, per la cronaca, non parava un rigore in campionato dal 2003 e l'aveva parato anche quello all'Olimpico, ma contro la Lazio. Dicevo che tra i più brillanti della Roma nell'opporsi alla Juventus con quella difesa improvvisata, per non dire raffazzonata, è stato certamente Taddei, che ha avuto tra l'altro un crescendo finale quasi impressionante. Sentiamolo. Soddisfa a metà, soprattutto per quello che abbiamo creato questa sera. Meritavamo algo in più, però abbiamo giocato alla pari con la capolista del campionato e questo è stato un punto importante. Penso che la squadra ha fatto oggi tanti sacrifici, da qua dobbiamo ripartire per le prossime partite fino alla fine del campionato. Faticoso nel senso che da terzino devo fare 100 metri e facevo solo 50, quindi la fatica è doppia, però per me non è un problema. A 31 anni cerco di acquisire più esperienza e cerco di allenare e di tenermi sempre a disposizione per fare tutte le partite al massimo. Li ha fatti un sacco di volte Taddei ieri sera quei 100 metri, e li ha fatti bene, ripeto, soprattutto in crescendo dopo qualche esitazione iniziale. Allora, più tardi i vostri commenti a Juventus-Roma e agli sviluppi di classifica e di campionato in proiezione. Vi ricordo per esempio che l'Udinese nelle due prossime partite gioca a Roma con la Lazio domenica sera e poi riceve la Juventus nel tardo pomeriggio di mercoledì, e quindi qualcosa di più si saprà in maniera, non dico definitiva, ma insomma ancora più significativa sul conto dell'Udinese, che è la co-capolista insieme alla Juventus. Bentornato a Fabio Tavenni. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti, allora, liquiderei innanzitutto questa sconfitta del City di ieri sera sul campo del Chelsea, perché comunque riapre ufficialmente la Premier League. Ma non fosse altro perché è stata la prima, per cui primo stop della capolista, occorre una riflessione. C'è stato il primo stop... c'è stato lo stop del Real Madrid l'altra sera, ieri sera non c'è stato lo stop della Juventus, c'è lo stop del City. Stop particolare perché la partita si era messa subito molto bene, bel gol di Balotelli con la solita amnesia difensiva del Chelsea che giocava con Ivanovic centrale, e forse la cosa un po' si è vista. Balotelli sta molto bravo a entrare in un taglio, ha fatto sedere il portiere e l'ha battuto. Poi la partita avrebbe potuto, non dico chiudersi, ma quasi, perché il Chelsea ha... credo giustamente reclamato, lo ha detto in maniera un po' sfumata, fumata per chi non lo conoscesse, insomma, Roberto Mancini nel post partita, lui ha detto: "Beh, che bravo che è stato l'arbitro a vedere in mano di Lescott, strano che non sia stato bravo anche a vedere un fallo evidente su uno dei miei". Comunque, Agüero ha anche fallito il gol del 2-0 e lì poi la partita è un po' cambiata, un primo tempo anche caratterizzato da tanta pioggia, primo tempo proprio inglese, molto inglese come clima, col Chelsea che ha fatto il pugile che aspetta la fine della sfuriata dell'avversario per poi cominciare a colpire, ed ha fatto così perché poi il pareggio è arrivato con Meireles e poi è arrivato anche il gol della vittoria firmato da Lampard, che era appena entrato sul calcio di rigore, la conferma da parte di Villas-Boas che ha tutta la squadra in mano, nel senso che ha tolto evidentemente i giocatori che gli davano più problemi dal punto di vista caratteriale, quindi Alex, quindi Anelka, ha fatto delle scelte non facili, John Obi Mikel, Lampard fuori, Torres definitivamente accantonato, scelte coraggiose, però credo che gli vada riconosciuto il fatto che di fronte alla possibilità di affondare ha voluto affondare con le proprie armi, ha voluto affondare con le proprie idee e non è affondato, perché la partita che gli ha girato per il momento della stagione è stata quella contro il Newcastle, vittoria esterna, da lì poi è arrivata la vittoria in casa contro il Valencia per la qualificazione al primo posto nel girone di Champions League, è arrivata la vittoria di ieri che lo riporta a 7 punti dal Manchester City, e questo vuol dire che non solo che Villas-Boas il panettone lo mangia, ma che con tutta probabilità adesso la stagione del Chelsea può diventare anche in chiave europea un po' più pericolosa. Per gli altri, naturalmente, non per lui. Per gli altri. Vabbè, adesso facciamo un più serio passo indietro per Real Barça, anzi, di sabato sera. Ieri molti ascoltatori sollecitavano un intervento su questo e io ho detto rispettiamo le cadenze e il martedì c'è la rubrica di calcio internazionale. Dato che manca soltanto un minuto e mezzo al primo intervallo, la cominciamo da quella storia dei topi che mi hai raccontato e che è abbastanza inedita e che risale alla vigilia della sfida. Sì, l'aereo tra l'altro tutto griffato con i giocatori del Barcellona arrivava dalla Guinea, credo dalla Guinea francese, ed è stato derattizzato perché hanno trovato nella stiva una quantità spropositata di topi. E io poi non lo so perché non l'ho più seguita la vicenda, ma credo che il Barcellona per andare in Giappone ne abbia usato un altro di aereo, insomma nella stiva di questo aereo hanno trovato topi in sovrabbondanza e quindi hanno dovuto derattizzarlo, e quindi derattizzandolo non era possibile per esseri umani salirci, cosa francamente incredibile, però insomma evidentemente piaceva anche a questi topi stare su un aereo così prestigioso, per cui sì, è molto curioso, gli hanno dato abbastanza spazio in Spagna perché è una cosa francamente non consueta. La notizia di giornata a parer mio è l'audience televisiva, sì, della partita, 12 milioni abbondanti in Spagna. In Spagna sono tantissimi, perché cioè sono tanti anche da noi 12 milioni, ma credo che in Spagna siano comparativamente ancora di più. Sì, la partita andava in chiaro e anche sulle pay TV, questo dimostra, 12 milioni non sono una cifra cioè è una cifra solo per televisione in chiaro, generalista, ed è da Fiorello, per dirti. Sì, certamente. Da Fiorello, sì. Questo, insomma, e quindi sì. Dai, e poi adesso facciamo questo breve intervallo e poi ripartiamo da quel doppio calcio d'inizio battuto da Messi, che sinceramente tutto poteva lasciare presagire, ma non poi l'esito che la partita ha avuto e tutte le conseguenze che avrà poi anche in prospettiva. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli. Allora, batte il calcio d'inizio con 6 punti di distacco in quel momento il Barcellona. Sì, 3 in realtà, però con sì, una partita. 3, ma con una partita in più, certo. Lo batte Messi, va bene, in 21 secondi la palla entra in rete nella rete del Barça per un errore colossale del portiere in rilancio di piede, eccetera, di Valdés. Rimette la palla al centro il Barcellona, Messi ribatte il calcio d'inizio a questo punto sullo 0-1 e io non dico che la Liga sia finita, però quella partita è l'occasione per restituirgli la manita con gli interessi, credo. Nei voti dei madridisti, in realtà forse per assurdo è arrivato fin troppo presto, ma lo diciamo perché sappiamo il risultato finale. È vero però che in quel momento è inutile che lo ripetiamo, ma noi stessi l'avevamo detto, con tutta l'inerzia di pensiero da parte di tutti gli osservatori convintissimi, ma credo Gigi, chi ci ascolta costantemente, sa pensiamo da questo punto di vista, che mai come adesso il Real fosse vicino, che mai come adesso il Real avesse in mano le chiavi per scardinarlo, questo meccanismo perfetto del Barcellona, che mai come in questo momento il Barcellona stesse facendo fatica, soprattutto in trasferta, parlo di Liga, un po' meno di Champions, ecco che hai anche il vantaggio immediato, oltretutto regalato, quindi in una bolgia infernale come era il Bernabeu, in quel momento la sensazione che il castello potesse crollare definitivamente era forte, fortissima. Devo anche dire che il Barcellona ha vinto una partita cioè ha giocato in maniera fantastica, sì, ma non ha dato quella sensazione di imbarazzante superiorità rispetto al passato, e questo è ancora più grave per il Real Madrid. Esatto, era lì che volevo arrivare a questo complesso di inferiorità che secondo me è stata la vera cosa sorprendente di sabato sera, perché con tutte queste premesse che abbiamo fatto e che abbiamo ricordato, e con tutta la voglia di rivincita che i madridisti hanno dall'allenatore al presidente, ma all'inserviente, all'ultimo tifoso, è incredibile vedere Real che butta all'aria un'occasione del genere e che finisce l'ultimo mezz'ora toreato per l'ennesima volta da questi che non sono nella loro migliore serata. No, non sono nella loro migliore serata, non sono nel loro miglior periodo, forse neanche nella miglior formazione possibile. Però è evidente, secondo me sono evidenti due cose. La prima è bisogna dare ragione a Mourinho, poi lui lo dice in una maniera diversa e anche per mandare messaggi diversi. Cioè il Real Madrid rimane la favorita per la Liga perché per fortuna del Real Madrid di Clásicos ce ne sono solo due, sì. Per cui alla peggio ne può perdere un altro solo, che si giocherà credo a fine aprile, ma il Real Madrid è più tagliato per la Liga, non è pensabile che il Barcellona giochi a questo livello, che ripeto non è il livello massimo possibile, ma è comunque un livello di un'intensità mentale pazzesca. Credo anche che il Barcellona potrebbe un filino essere non particolarmente contento del fatto che la Liga gli abbia messo il classico qualche ora prima di partire per il Giappone per disputare il mondiale per il club. Mondiale, certo. Diciamo che il Rayo Vallecano poteva bastare. Detto questo, il Real Madrid rimane ancora il favorito della Liga, con però il fatto che anche se vincesse la Liga, di fronte a un classico giocato così e non dovesse vincere il secondo classico, tutti penseremo, a meno che il Barcellona non prenda 20 punti di distacco, che il Barcellona è più forte del Real Madrid, punto, e che la vera competizione sia a questo punto poi sulla Champions League, dove comunque il Barcellona rimane favorito, perché nella gara singola o nella finale in 90 minuti o nella gara in 180, a pensare che una squadra possa, a maggior ragione in 180, cioè più difficile perché si allunga il tempo, si allungano i round, possa battere il Barcellona è sinceramente molto molto difficile. E siccome José Mourinho ha già battuto il Barcellona con una squadra clamorosamente meno forte rispetto al Real Madrid, perché l'Inter era una squadra per carità forte, ma il Real Madrid di oggi per me è più forte di quell'Inter. Potenzialmente lo è molto di più. Pone inquietanti dubbi sul futuro, perché se non ci riesce lui con questo popò di squadra, e soprattutto se non riesce a far dare a quel popò di squadra una spallata forte, e siccome il Real Madrid proprio a spallate spesso butta giù gli avversari, e allora questo ci fa pensare che anche un Barcellona non a 18 carati possa essere sufficiente a Guardiola per fare ancora danni a tutti gli altri per qualche tempo ancora. Ti sottopongo qualche numero per qualche riflessione. Allora, partendo dal presupposto che l'altra sera, a parer mio, gli uomini decisivi del Barça sono stati per una volta, non dico i gregari perché i gregari non ce n'è, ma insomma i faticatori. Busquets ha giocato una partita straordinaria, ha giocato una grande partita a Puyol, Messi insomma, ha fatto le cose da Messi ma ne ha fatte pochine, comunque numeri che riguardano invece i personaggi copertina di sempre. Allora, Guardiola contro il Real ha un bilancio di 6 vittorie e un pareggio, parliamo di Liga. Mourinho ha già perso 5 partite col Barcellona. Fabregas in 8 anni di Arsenal aveva segnato un gol di testa in inserimento, ne ha segnati già 3 nel Barcellona in 13 partite, no? Se parliamo di schemi, di inserimenti. Sì, gioca in un ruolo un filino diverso. Però sì, sì, d'accordo. Poi se arriviamo invece ai tenori, Messi con il Real Madrid ha segnato 13 gol in 16 partite, Ronaldo contro il Barcellona ha segnati 3 in 13, e questa è stata una cosa che il Paese insomma, i quotidiani spagnoli hanno molto rimarcato. Di tutto questo che cosa ti colpisce di più? Ma guarda, a me ha colpito intanto l'azione di Messi sul gol di Sanchez, perché perché mi ha ricordato davvero i tagli che Careca faceva a Maradona, perché il gol di Sanchez è un gol alla Careca e l'azione di Messi è un'azione alla Maradona. Mi ha colpito tantissimo la capacità di Guardiola di muovere anche le sue pedine quando un giocatore come Di Maria poteva creare problemi e cambiare centrale e mettergli Puyol dalle sue parti. Io credo che in questo caso la statistica più importante sia che quando il Barcellona perde quasi mai gioca Charlie Puyol, cioè onestamente è quella la chiave di tutto, perché non è possibile sia un caso. E allora forse ogni tanto dovremmo anche ricordarci che oltre a celebrare i grandissimi, gli Xavi, Iniesta, Messi e così, dobbiamo anche ricordarci che il Barcellona è così grande anche perché Piqué e Puyol dietro danno delle certo. garanzie che sono... Certo. Il Barcellona può giocare anche con un portiere normale, come è Victor Valdés, che ogni tanto fa delle scemenze del genere, e proprio perché è stracoperto sia dalla linea di centrocampo. Poi... io credo che Guardiola quest'anno abbia fatto veramente vedere di essere un grande allenatore, anche più dell'anno scorso, perché riuscire a inserire così Fabregas, riuscire a trovargli un posto modificandogli anche il ruolo, facendolo giocare quasi da punta a volte. Sì, è vero. E lavorare molto sulla difesa a 3 o la difesa a 4, cambiando anche in corsa, avendo il coraggio di cambiare i centrali durante una partita, avendo comunque Puyol e Piqué che forse sono la miglior coppia centrale del mondo, secondo me molto molto bene. E poi è evidente che Mourinho ha un complesso nei confronti del Barcellona, non può non essere così, perché altrimenti non si spiega come lui oggi abbia fatto una conferenza stampa prima di una partita di Coppa del Re, dove ragionevolmente il Real Madrid dovrebbe scorpacciare l'avversario, e non l'abbia fatta prima di una partita di Champions League, di Classico, per cui questo lo trovo sinceramente significativo. Le prese con le formalità, in teoria, perché poi la finale è tutta da giocare, come sempre. E io chiuderei l'appuntamento di oggi con questa protesta dei tifosi dell'Ajax di domenica. È stata una protesta civile, ma insomma abbastanza vistosa, questi palloni lanciati in campo per confondere il gioco, le idee, eccetera, eccetera. Perché? Ma per il fatto che l'UEFA, al momento perlomeno, pare proprio, ma ormai dopo domani c'è il sorteggio, tra 3 giorni del sorteggio, ha incassato senza colpo ferire quel 7-1 del Lione fuori casa, che sinceramente resta in tutto il suo imbarazzo, direi. Guarda, io ho provato un imbarazzo totale il giorno dopo la partita, a sentir dire che la partita era regolare perché non si erano visti flussi anomali di scommesse, che mi sembra... Perché allora se quello è diventato l'unico parametro, allora è la fine. Quella è la fine, ed è abbastanza evidente che l'arbitro non abbia scritto nulla di particolare. Io poi... sinceramente poi in televisione ho anche parlato con Boban, del quale ho la massima stima e la massima fiducia, e lui mi ha parlato anche da tifoso dello Zagabria di una partita totalmente sbagliata da parte dello Zagabria e di una partita eccellente da parte del Lione, e invitando a non pensar male. Quindi se lo dice Zvone mi devo fidare. Sì, Zvone ogni tanto a Zagabria deve tornare, no? Sì, mentre noi sì. possiamo stare noi qui. Noi meno. No, certo, è verissimo. E non lo so, cioè credo che poi le proteste dei giocatori, cioè le proteste del pubblico dell'Ajax sia legittimo essere arrabbiati, sinceramente. Detto questo, se non c'è un'evidenza netta e chiara di questo comportamento, credo che anche l'UEFA non possa muoversi. Il problema è che l'UEFA non può agire d'ufficio, cioè deve aspettare un referto. Se il referto non dice nulla, e ci sta anche che non dica nulla, perché non è proprio compito dell'arbitro andare a sindacare le capacità pedatorie dei giocatori, cioè o vede e sente qualcosa, sente una parola, vede un comportamento, ma che a quel punto se lo vede l'arbitro lo vedono tutti. Se no l'UEFA lì è bloccata. Lo so, ma se non esiste un ufficio inchieste per partite di questo genere, qualcosina va rivisto dalle fondamenta. Concordo. Grazie Fabio. Grazie a te Gigi, saluti a tutti. Allora, chiuso il collegamento sul calcio internazionale. Subito dopo l'intervallo, immagino, no, i vostri, cioè vedo molte prenotazioni, immagino che vertano soprattutto su Juve-Roma, in notizia uscita da pochissimo. Le conseguenze del giudice sportivo per la partita di ieri sera. Allora, un turno di squalifica a Pjanic della Roma e uno a Vidal e Bonucci della Juventus. Quanto alle sanzioni, 30.000 euro alla Roma per petardi fumogeni e fasci di luce laser e stesse motivazioni per 15.000 euro di sanzione alla Juventus. Nel frattempo al CONI stanno apparecchiando il tavolo, il famoso tavolo della pace che domani mattina ospiterà, leggo da un'agenzia, il numero uno del CONI evidentemente, il presidente Petrucci, il segretario generale Pagnozzi, il presidente della Federcalcio Abete, il direttore generale Antonello Valentini, i patroni di Juventus e Inter, quindi Agnelli e Moratti, l'amministratore delegato del Milan Galliani, il presidente onorario della Fiorentina Della Valle e il presidente del Napoli De Laurentiis, credo in quanto produttore di cine panettoni. Roberto in linea da Vicenza, buongiorno. Dica. Devo cambiare la mia domanda perché ho sentito adesso la borsa e la Zucchi è salita del 9% perché Buffon ha parato a rigore, domanda a parte gli scherzi. Voi parlate con grande amore ancora di calcio e parlate di quello che è successo nella partita Barcellona-Real Madrid, ma non è grandissimo calcio, è un calcio così. Ne parlate con grande competenza, bravissimo il suo collaboratore. Barcellona ha un fuori classe e un grande centrale, intanto. Calcio di una volta, credo che i calciatori di una volta allenati come adesso sarebbe un'altra cosa. Ti ascolto. Mi ascolti pure, ma io credo invece che ai ritmi di oggi i calciatori di una volta, e lo dico con lo dico molto a malincuore, ma credo che molti di loro farebbero molta fatica, oppure si dovrebbero comunque adattare a ritmi, fatiche, intensità, professionismo che un tempo erano sconosciuti. Non so, io penso a quel grande artista che è stato Omar Sivori e che a cui si facevano fatica a contare whisky e le Marlboro no? Durante nel pieno della sua carriera, intendiamoci. Ed era una vita splendida, guadagnavano molto meno dei calciatori di oggi e vivevano molto ma molto meglio rispetto ai calciatori di oggi, perché non erano degli alienati, erano dei professionisti a loro volta, ma con le regole e con i limiti del professionismo di allora. Però io non so se da un punto di vista caratteriale Sivori, ma sto dicendo un fenomeno di allora, a caso, se Sivori avrebbe avuto la voglia, la forza mentale di allenarsi come occorre allenarsi oggi per poter emergere oggi. E quindi io sono in totale disaccordo con lei, anche perché il Barcellona ha un fuoriclasse, questo è riconosciuto, un grande centrale che immagino lei individui in Piqué, dopodiché ha uno dei più grandi centrocampisti mai esistiti nella storia del calcio, si chiama Xavi, e ha una media di giocatori di livello in tutti gli altri ruoli che è altissima, e quindi proprio non solo non sono d'accordo, ma sono, ripeto, in totale disaccordo. Cristiano da Prato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, anche io volevo fare un appunto, volevo sapere cosa pensava lei sulla frase che ha detto Tavelli prima, che l'Inter era clamorosamente inferiore al Real Madrid di ora, cioè l'Inter di Mourinho. Non avrei detto clamorosamente, avrei tolto l'aggettivo. Perché se noi guardiamo l'Inter di Mourinho uomo contro uomo, solo sulla fascia sinistra dove c'era Kivu, che forse si può trovare un equivalente, sicuramente gli altri ruoli erano coperti da giocatori, da super giocatori di 2 anni fa e tutti conosciamo, altrimenti in 2 partite te non puoi prendere soltanto 2 gol dal Barcellona come abbiamo preso noi. Quindi quella Tavelli mi sembra a volte il professorino faccia un po' anche. No, ma quale professorino? Intanto nessuno fa il professore, né voi né noi da questa parte del microfono, ciascuno dice la sua opinione. Credo che quel clamorosamente fosse un po' eccessivo, fosse un po' tanto eccessivo, magari. Credo anche che quell'Inter, in realtà, quell'Inter è durata due mesi, è stato un momento magico di due mesi, o di tre al massimo, che è cominciato con la vittoria sul Chelsea, peraltro chiacchieratissima e discutibilissima, con la doppia vittoria, insomma con l'eliminazione del Chelsea, ed è arrivata fino alla notte di Madrid e la vittoria col Bayern. Dopodiché, prima ancora che la partita finisse, Mourinho era già sull'altro pullman, perché aveva capito che in realtà quella squadra era andata oltre le sue possibilità, come dopo si è visto e si sta vedendo tuttora benissimo. Quindi, se parliamo di forza di organico, io continuo a non essere d'accordo. Credo che questo Real Madrid abbia più risorse tecniche, temperamentali, fisiche, agonistiche, mentali, eccetera, di quanto non avesse quell'Inter, perché questo è un Real che può vincere o non vincere, ma insomma è uno squadrone destinato a restare ad alto livello per molto tempo. Quella era un Inter che ha vissuto, grazie a una serie di circostanze, di concomitanze e di meriti, indubbiamente, ha vissuto un momento magico che è durato tre mesi. Grazie Cristiano. Veniamo a Milano. Nicola, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Dica. Capitolo Juve, direi intanto che i numeri contano per giudicare il calcio, così come avete fatto per celebrare il Barcellona, però se bastassero i numeri spariremmo tutti, no? Lei compreso, da grande diciamo esperto di calcio, basterebbero i sistemisti e questa gente qua. Allora direi che volendo appunto giudicare il gioco che fanno le squadre, mi aspettavo che lei dicesse oggi, lei che io la reputo diciamo abbastanza, anzi molto esperta, che dicesse che la Juve nelle tre o quattro partite ultime abbia invece evidenziato i suoi limiti, nel senso che a Roma con la Lazio, a Napoli col Napoli e ieri con la Roma, insomma io direi che metterle in fila, direi che la Juve non so se proprio sia così, voglio dire, celebrata come è stata ieri. Aspettavo che uno come lei dicesse potrebbe essere questo il limite della Juve, e non è detto che tutte queste partite in fila le meritava tutte. Aspetto per radio, grazie. Ma insomma, io ho detto all'inizio che ha buttato via due punti ieri sera, per il mio, e mi sembra che sia un giudizio abbastanza significativo. A Napoli non ha rubato assolutamente nulla, con la Lazio nemmeno, può essere girata più o meno storta, ma lei per esempio nel caso di ieri sera non si faccia fuorviare dal rigore sbagliato di Totti, perché è vero che quella è una, cioè più da avere la palla ferma sul dischetto non c'è occasione più ghiotta, ma guardi che ha tirato in porta la Juventus almeno il doppio di quanto non abbia tirato la Roma, e in maniera pericolosa. Nel finale, se c'era una squadra che poteva, al di là di un contropiede di Lamela, poi servito Totti, e Totti si è incartato perché Totti una volta avrebbe calciato il volo di destro e avrebbe bucato la rete. Al di là di un paio di episodi finali in area della Juventus, insomma, è sempre stata la Juve che ha cercato di vincere, ma secondo me troppi giocatori chiave della Juventus ieri sera hanno sbagliato partita e hanno impedito di far sì che quella che oggi è una squadra di particolarissima fragilità, e cioè la Roma, ma per disorganizzazione endemica, ma per esperimenti, ma anche e soprattutto nel caso di ieri per mancanza di giocatori chiave, soprattutto in difesa, quindi per limiti di organico, beh, una squadra come la Juve la deve mettere sotto, indipendentemente dal risultato, la deve mettere sotto con una ben altra perentorietà. Alla Juventus ieri sera è mancato completamente la qualità del centrocampo, perché Pirlo ha giocato una partita veramente mediocre, non ha brillato Marchisio, e Vidal, oltre a non brillare a sua volta, ha sulla coscienza il primo gol con una roba da mai dire gol, e il rigore su Totti, che poi non ha avuto conseguenze, ma è comunque una sciocchezza sesquipedale, perché l'arbitro ha fatto correre, c'era un primo fallo di Lichtsteiner su non mi ricordo chi, che poteva già indurre l'arbitro a fischiare rigore. L'arbitro ha lasciato perdere, due secondi dopo Vidal abbatte l'avversario, e davvero non era il caso, perché era una mischia di quelle in cui appunto bisogna ragionare prima di intervenire, e quindi insomma secondo me il centrocampo della Juve di sera proprio ha un po' tradito la squadra ed è costata 2 punti alla Juventus. Leonardo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Volevo riallacciarmi alle 2 ultime telefonate, una di un ascoltatore che diceva della velocità del calcio moderno e 2 appunto alla Juventus di ieri sera. Ecco, immagino i calciatori di un tempo nominati dall'ascoltatore precedente giocare contro una squadra come la Juve di adesso che va veramente a 200 all'ora. Io sono uno che ha visto giocare Platini e Zidane, quindi la Juve di adesso non mi fa impazzire, sono un tifoso, però ecco, non è che questo suo strapotere fisico, questa grossa atleticità, questo non fare respirare gli avversari sia la qualità che sta spingendo avanti adesso la Juve. Trovo che ci sia un po' poca qualità nella finalizzazione, negli ultimi, insomma, ieri sera mancava Vucinic, è vero, Pirlo sottotono, Marchisio sottotono, però sembrava che fossimo molto prevedibili, voglio dire. Certo, ma lei ha ragione, è una squadra soprattutto fisica e muscolare per il momento. Se poi manca Vucinic, e si è visto ieri sera che peso abbia Vucinic, e io sono convinto che buona parte una parte comunque almeno della prova infelice di Pirlo e direi anche di Marchisio, ma soprattutto di Pirlo, è che mancava questo pivot avanzato, questo punto di riferimento che galleggia tra il ruolo di punta centrale, di punta esterna, che muove, che rientra, che si ritorna, che crea gli spazi. E ieri sera non c'era nessuno che facesse questo. Detto ciò, credo anche che contro una difesa che non aveva difensore di ruolo se non Heinz, perché era l'unico difensore di ruolo, io credo anche che una squadra che vuol vincere parte con 2 attaccanti di ruolo, a parer mio, avendoli in rosa. E Conte invece l'ha vista in maniera diversa, e magari ha avuto ragione lui. Io continuo a essere di un'altra scuola di pensiero. Il 13 dicembre, nella libera interpretazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 13 dicembre 1931. Allo scadere d'Italia-Ungheria, incontro valido per la Coppa Internazionale disputato al campo di Via Filadelfia a Torino, la selezione guidata da Vittorio Pozzo trova il gol del 3-2 definitivo grazie a uno spunto dell'oriundo Renato Cesarini. La mezzala italo-argentina anticipa il compagno di squadra Costantino, battendo a rete con decisione, quando il cronometro segna ormai il 90esimo. È un gol che fa epoca. Nasce infatti allora la zona Cesarini, a definire l'area temporale della disperazione, dove si annidano le reti determinanti, quelle che era solito realizzare quel concentrato di talento e anticonformismo che era Renato Cesarini. Beh, a definire l'area temporale della disperazione è una magnifica espressione. Nicola Filippone mi segnala anche per oggi oggi nel senso del 13 dicembre, nel 98, Mihajlovic che segna 3 gol, tutti e 3 su punizione, al portiere della Sampdoria Ferron in Lazio-Sampdoria 5-2. È in effetti una curiosità non da poco. E poi magari anche gli auguri, 65 anni ragazzi se passano, di Pierino Prati, il 13 di dicembre del 46, è nato a Cinisello Balsamo. Auguri a Pierino. Questo è un messaggio che è paradigmatico proprio, ve lo leggo invitandovi a gustarlo, perché questo è paradigmatico di cosa significa il tifo. Lo firma un certo Lucio e scrive: la reputo corretto e competente, ma dire che l'Inter di Mourinho ha goduto di episodi e meriti durati 3 mesi non è onestà intellettuale. Quindi tu sei corretto, questo, ma è un classico, vale per gli interisti, gli juventini, i milanisti, no, se scendi nelle piccole squadre un po' meno, ma insomma è veramente paradigmatico. Cioè tu sei corretto e competente, bontà loro, grazie di questo, e per questo mi cavo il cappello e mi metto sull'attenti. Ma se però critichi la squadra tua, allora diventi intellettualmente disonesto, leggenda. Grazie Lucio. Grazie, perché non avrebbe potuto, lo metto da parte questo, perché è una sintesi perfetta veramente di quello che sostengo da tanti ma tanti anni. Stefano Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, tifoso juventino. Senta, sì. Io ieri mi aspettavo la vittoria della Juventus, soprattutto perché la Roma era uscita da Firenze. Anch'io non da tifoso juventino, sia ben chiaro, anzi, però mi aspettavo una larga vittoria della Juventus. Sì, anche perché la Roma è riuscita con 3 espulsi, aveva fatto un regalo enorme alla Juventus. Però non capisco perché Conte, dopo la partita col Bologna, dove Del Piero comunque aveva giocato bene, non abbia puntato su una partita così importante, su una persona che magari non può reggere l'intera partita, però credo che un tempo poteva tranquillamente giocarlo alla grande anche. L'ascolto per radio. Insomma, il soggetto a cui lei si riferisce evidentemente Conte non lo vede più, insomma non se ne fida più. Nel calcio di oggi succedono queste cose, succedono per i vecchi ma anche per i giovani. Leggevo, perché poi con le rose di 25-30 giocatori si perde il conto. Stamattina leggo, non so più da che parte, no, stamattina non sono usciti i giornali, ma insomma da qualche parte ho letto di recente che Taiwo, o come si chiama, sta ripartendo dal Milan per destinazione ignota o destinazione innocua, come diceva una volta un povero, uno scomparso presidente del Torino. Taiwo, cioè ancora 4 mesi fa, 5 mesi fa, Taiwo era il nuovo Nilton Santos, credo, della difesa milanista. Ha giocato una partita o due in Coppa, mi pare, a Milano, una tifoseria tutta dalla sua parte, dei boati pazzeschi di approvazione per Taiwo. Passa un mese, passa 2 mesi, Taiwo libero a casa. Quindi cosa vuole? È difficile mettere... È difficile capire i meccanismi del calcio di oggi. D'altra parte, io parto sempre dal presupposto che l'allenatore autolesionista non ci sia. C'è quello che magari sbaglia, ma non credo che Conte o Allegri facciano a meno di Del Piero o piuttosto che di Taiwo, no? Abissalmente diversi come qualità, ma insomma per principio. Lo fanno certamente in buona fede. E professionalmente parlando, in maniera che avrai come dei fondamenti. Ma io ieri sera, ripeto, due punte nella Juve, meno la squadra avversaria ha difensori di ruolo, e io più provo a mettere attaccanti di ruolo, forse già in partenza, e in ogni caso durante di sicuro. Michele, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, mi è successo insomma di seguirla, io non sono un assiduo vostro ascoltatore, ma ricordo benissimamente alcune sue parole nei confronti di Mourinho. Inquinatore, ricordo bene perché non sono matto, vorrei capire un attimo. Avvelenatore di pozzi. Avvelenatore, inquinatore, me lo ricordo perfettamente. Inquinatore o avvelenatore di pozzi, scelga lei, per me avvelenatore è ancora più forte, comunque scelga pure. Voglio capire questa sua versione, cioè questo suo accadimento nei confronti dell'uomo Mourinho, dove del professionista Mourinho. Lei parla anche del signor professionista, perché lei sta parlando di uno degli allenatori oggi attualmente più vincenti che esistano. Ma guardi che possono avvelenare anche i vincenti, non è quello. L'inquinatore può essere, io insisto, è una delle persone più antisportive che abbiano mai calcato la ribalta del calcio di alto livello nella storia di questo sport. È un parere ormai abbastanza universalmente diffuso e accettato. E sa dove ha attecchito ultimamente questo parere, dove è stato accettato? A Madrid. E sa dove? Nello spogliatoio del Real. Ha notato che sono 2 o 3 mesi che si comporta meglio, e sa perché è successo questo? Perché quando c'è stato uno scontro frontale tra Casillas, Sergio Ramos e gli altri giocatori della nazionale, che erano stufi di dover litigare con i loro compagni del Barcellona, litigare a prioristicamente perché questo accendeva i fuochi e avvelenava i pozzi, un giorno, anziché rivolgersi direttamente a lui perché era inutile, hanno provato a farsi sentire in società dicendo: l'altro anno avevamo ancora almeno Valdano che ci faceva da filtro e ci tutelava dal punto di vista dell'educazione, quest'anno non c'è più, trovateci qualcun altro che ci dia la possibilità, se io Casillas, che sono il portiere nazionale, telefono a Xavi o lo incontro per strada o lo saluto, di non dovermi poi sentire dire la Mourinho chissà che cosa, no? Perché... E quindi così è andata. Se questo secondo lei non è un avvelenatore di pozzi e un inquinatore di comportamenti, liberissimo di pensarla così, non c'è mica nulla che non vada. Dunque, la velocità sugli scatti, sì, no, questo argomento ha preso molto, però non c'è possibilità di svilupparlo adesso perché manca troppo poco tempo. È quell'ascoltatore di prima che si chiedeva che si chiedeva come cosa farebbero oggi i calciatori forti di un tempo se potessero avere la possibilità di allenarsi come si allenano oggi. Io dicevo che però dovrebbero allenarsi come si allenano oggi, quindi bisogna vedere come reagiscono. Domani Giampaolo Calvarese è l'arbitro di Teramo che dovrà dirigere l'ultimo quarto d'ora di Padova-Torino, il recupero parziale di quella partita sospesa per un blackout elettrico. Domani alle 14.30, tra l'altro seguiremo in diretta, grazie a Pietro Lacconte in regia e a Franco Piantarida in redazione. Buon pomeriggio.